GR24, il sole 24 ore. Tensione all'Ilva, a Taranto e a Genova. Fiducioso il ministro Clini, troveremo giovedì una soluzione. Previsioni OCSE, l'Europa ancora in recessione nel 2013, in Italia necessaria una nuova manovra. Primarie del centro-sinistra, Bersani-Renzi ancora braccio di ferro sulle regole. Pomigliano, il primo degli operai FIOM reintegrati, firma l'assunzione. Buona giornata da Anarita D'Ambrosio e dalla redazione. Primo piano sempre all'Ilva di Taranto, dopo la nuova raffica di arresti che ha coinvolto lo stabilimento e poi la decisione dell'azienda di chiudere l'impianto a freddo, 5.000 i posti di lavoro a rischio. Una mattinata di forte tensione a Taranto, nella quale parleremo tra breve in Italia in controluce dopo questa edizione di GR24. Ma le ripercussioni non riguardano solo Taranto, ma anche altre città, Genova in particolare. La chiusura degli impianti a freddo dell'Ilva di Taranto compromette la sopravvivenza dello stabilimento di Cornigliano, in bilico 1.760 posti di lavoro. Stamane assemblea in fabbrica e corteo, dal ponente fino al centro, 1.000 in piazza, bloccato il casello di Genova Ovest, paralizzato il nodo autostradale, in tilt la viabilità urbana. Appelli al governo da parte delle istituzioni locali. Per il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, l'unico modo per uscire da questa situazione è l'approvazione di un decreto che permetta la prosecuzione dell'attività produttiva. Il sindaco di Genova, Marco Doria, dice che il blocco totale dell'attività dell'Ilva apre scenari drammatici. A Genova stamane in piazza anche i lavoratori di Finmeccanica contro l'ipotesi della cessione di Ansaldo Energia e Ansaldo STS. Oggi riunione congiunta straordinaria dei consigli regionale e comunale. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Il rischio c'è ed è anche notevole. Queste sono parole pronunciate poco fa dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri in merito a possibili rischi di ordine pubblico proprio sulla vicenda dell'Ilva. Resta fiducioso invece il ministro Clini, che a Sky TG24 ha spiegato che il vertice di giovedì prossimo voluto dal governo con le parti non sarà interlocutorio. La cosa più incredibile è che noi siamo di fronte a questa azienda che dopo anni accetta senza ricorsi, come invece era abituata a fare in passato, tutte le prescrizioni ambientali, accetta di investire oltre 3 miliardi di euro per il risanamento degli impianti e per la protezione della salute, e a fronte di questo dato consolidato noi ci troviamo ostacoli che nascono dalla stessa autorità che dovrebbe far rispettare la legge. E noi stiamo lavorando per risolvere questa situazione, stiamo lavorando in tempi molto rapidi, come siamo abituati a fare peraltro, e credo che avremo la soluzione pronta già quando ci incontriamo giovedì. Non ho mai subito alcuna pressione da parte di Niki Vendola o di uomini del suo staff. Così in un'intervista al sito di Vanity Fair, Giorgio Assennato, direttore dell'ARPA Puglia, in relazione a presunte pressioni del governatore emerse dagli atti giudiziari che hanno portato all'arresto ieri di altre 7 persone all'Ilva di Taranto. L'inchiesta della Procura di Taranto punta adesso a presunte complicità eccellenti che avrebbero coperto l'inquinamento dell'acciaieria. Tra i nomi citati nell'ordinanza anche quello del presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido. Ecco cosa ha detto poco fa alla nostra Maria Luisa Pezzali. Secondo me, in una città che ha una fabbrica così importante, le relazioni fra la grande fabbrica e le istituzioni e la politica, credo che a Torino succeda uguale in tutto il mondo. Il punto è distinguere quanto questo sta nella laicità e a quello che io vedo molto è lecito, e quanto invece, come può essere dimostrato dall'azione dei magistrati, poi è illecito. E il presunto ruolo di Vendola a capo di questa rete? Non credo proprio che il presidente Vendola sia stato a capo di nessuna rete. Lui l'ha detto, che lui si è mosso come tutti noi per andare incontro alle esigenze di ambientalizzazione di quella fabbrica, e la cautela con la quale si è mossa era proprio per evitare una rottura sociale che purtroppo in queste ore sta intervenendo. Il governo deve assolutamente aprire un negoziato, in gioco c'è un'intera filiera produttiva, dice l'economista Giulio Sapelli. Con questa posizione durissima che la magistratura ha assunto, trasformandosi da ordine in potere, qualsiasi cosa il governo fa adesso può aprire un conflitto istituzionale. Ciononostante, il governo secondo me deve assolutamente aprire un negoziato, perché ormai il danno è stato fatto, bisogna che il giudice ritiri questa ordinanza, bisogna che la produzione riprenda, anche perché tutti gli elementi tecnici che avevamo segnalavano una possibilità, come già del resto il ministro Clini e anche il ministro Passera avevano sottolineato, di affrontare il rischio aziendale sulla salute, che naturalmente esiste ma non è così grave, continuando la produzione. Naturalmente questa questione non interessa solo Taranto, anche se già è una questione esplosiva, ma tutta una filiera tecnologica e produttiva può avere delle conseguenze disastrose. Quell'impianto è un impianto storico, è uno dei più importanti impianti nel mondo di siderurgia a ciclo integrale, da cui dipendono, come una sorta di albero, tutta una serie di medie e piccole imprese, fornitori, terzisti, imprese di componenti, che non sono solo italiane, sono anche estere. Ampia dunque la pagina dedicata al caso Ilva, del quale torneremo a parlare tra poco in Italia in controluce alle 13.30. Noi ci spostiamo in un'altra fabbrica, quella di Pomigliano, dalla quale arrivano anche oggi delle novità. È stato riassunto il primo dei 19 operai della FIOM reintegrati dal giudice. Sono entrati uno alla volta in fabbrica per la firma del contratto, accompagnati da un legale e con la bandiera della FIOM sulle spalle. Il ritorno effettivo alla catena di montaggio è previsto invece il 10 dicembre. L'invito a rientrare era arrivato ieri da parte dei vertici aziendali con un telegramma nel quale i lavoratori venivano convocati per comunicazioni urgenti. Un invito che i 19 attendevano da tempo, da quando cioè la Corte di Appello di Roma, il 19 ottobre scorso, ordinò l'assunzione di 145 iscritti alla FIOM Cassa Integrati di Pomigliano, confermando la sentenza di giugno del Tribunale di Roma, il quale aveva stabilito la discriminazione nei loro confronti da parte dell'azienda. In seguito all'ordinanza, però, l'azienda ha annunciato le procedure di mobilità per 19 operai già assunti, che dovranno lasciare il proprio posto agli iscritti alla FIOM a causa del perdurare della crisi che, secondo i vertici di Fabbrica Italia Pomigliano, non consente un aumento dell'organico. Una procedura che ha provocato molte polemiche e che è stata bocciata da tutti i sindacati, anche quelli firmatari dell'accordo con Fiat del 2010. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Tra pochissimo parliamo delle primarie, ma prima vi riferiamo delle parole del premier Mario Monti, che sta parlando a Palermo. La mafia, ha detto, si contrasta con la presenza costante dello Stato, con la prevenzione e con il contrasto a qualsiasi tipo di attività criminale, dal pizzo al traffico di droga al riciclaggio. Ma soprattutto, dice Monti, la mafia si combatte con la meritocrazia, riconoscendo il merito. Poi Monti ha parlato della crisi, ha colpito tutti e ci ha impartito delle lezioni importanti. Queste sono parole in videoconferenza del premier Mario Monti a Palermo. Il tema politico in primo piano comunque di queste ore restano ancora ovviamente le primarie del centro-sinistra in vista del ballottaggio, botta e risposta continuo tra i due contendenti. Ci racconta tutto in diretta da Roma la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno, sempre più scontro tra i due candidati del Partito Democratico in vista del ballottaggio di domenica prossima per le primarie di centro-sinistra. Matteo Renzi assicura di non voler fare un partitino, ma intanto il sindaco di Firenze è sempre più all'attacco per cercare di superare il rivale Pierluigi Bersani in vantaggio di 9 punti. Renzi chiede quindi un cambio di regole per far votare liberamente anche chi non ha partecipato al primo turno e, se gli fosse consentito, continua Renzi, pubblicherebbe verbalmente dei seggi a sue spese in 3 ore. L'attacco è a Nico Stumpo, responsabile organizzazione primaria inflessibile, che addirittura pretende le prove degli elettori che non hanno votato al primo turno. Ad esempio, se una persona era in viaggio deve portare il biglietto, sarà malata, il certificato medico. Stumpo dice anche che è impossibile pubblicare i verbali online in poco tempo. In tutto questo il segretario PD Pierluigi Bersani risponderà in video chat sul Corriere della Sera, mentre il sindaco di Firenze Matteo Renzi sarà questa sera porta a porta. Insomma, la sfida continua fino all'ultimo voto. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie Elisabetta, staremo a vedere. Il punto di Stefano Folli. Va bene la polemica sulle regole delle primarie del Partito Democratico, del resto ci sono troppe evidenti astruserie che rendono molto difficile per chi non ha votato al primo turno esprimersi al ballottaggio. Va bene anche il confronto generazionale fra Bersani e Renzi, va bene tutto, ma speriamo che i due candidati premier, niente meno, del centrosinistra non si dimentichino la realtà. Le previsioni dell'Ocse, che parlano di un'Italia in cui la crisi resterà grave ancora a lungo e imporrà una nuova manovra sui conti pubblici nel 2014 solo per restare nel pareggio di bilancio, ecco, questa è la realtà drammatica. Speriamo che anche questo, soprattutto questo, entri nella discussione preelettorale. Ci spieghino Bersani e Renzi quali sono le loro ricette per illuminare il cammino che oggi è buio, e sicuramente gli italiani avranno molta maggiore considerazione nei loro confronti. Invece, come avete sentito dalla diretta della nostra Elisabetta Fiorito, si continua a parlare di regole e c'è una precisazione che arriva dal presidente del collegio che si sta occupando delle primarie del PD, Luigi Berlinguer. Le regole, ha detto, per lo svolgimento delle primarie del centro-sinistra sono state definite nel regolamento approvato all'unanimità dal collegio dei garanti. Una volta iniziata la partita, le regole non si possono cambiare, ha detto appunto il presidente del collegio dei garanti, tra il primo e il secondo tempo. Quindi anche Luigi Berlinguer invita a parlare di fatti, ma sulle regole non c'è nulla da fare. E il ballottaggio si terrà domenica e saranno decisivi a questo punto i voti di SEL, voti che andranno a Bersani, questo si è capito ieri, con una precisazione però: dovrà guadagnarseli. Al ballottaggio delle primarie ci sono 480.000 voti con un punto interrogativo. Si tratta degli elettori di centrosinistra che al primo turno avevano scelto Vendola. Quelle persone per chi voteranno e che cosa chiederanno al candidato per cui esprimeranno una preferenza? Facendo un rapido giro delle sedi SEL in Italia si scopre che non è stata data una linea, ma che l'idea è molto simile, come ci spiega Domenico Papaleo di SEL Bologna. Non abbiamo la pretesa di orientare chiaramente in modo forte il voto come se fossimo un partito dell'Unione Sovietica, però per quanto ad esempio riguarda me, io andrò molto probabilmente a votare e la mia scelta sarà per Bersani. Secondo lei, così a naso, è un po' questo l'orientamento dell'elettorato di SEL, cioè piuttosto Bersani che non Renzi? Sì. Sì, l'orientamento diffuso è questo qui. Non cambia molto il discorso se ci si sposta in Lombardia, dove il candidato prescelto resta Bersani, come ci spiega Cavalli, esponente di SEL. È evidente che Bersani sia molto più vicino. Ma sai, un vendoliano si potrebbe riconoscere in Renzi se si fa prendere dallo spirito Dance Trends, sperando in un ricambio che nasca sulle macerie. Personalmente penso che Sinistra Ecologia e Libertà nasca per questo, nasce come progetto invece responsabile di costruzione di una sinistra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continua a parlare il presidente del Collegio dei Garanti del centro-sinistra in vista delle primarie, Luigi Berlinguer. Ha garantito che i verbali delle primarie del primo turno saranno messi online tra pochissimo sul sito primarieitaliabenecomune.it. Era una richiesta che aveva formulato nelle ultime ore Matteo Renzi. Che cosa fanno invece in casa opposta, in casa PDL? Non ancora sciolto il nodo delle primarie. L'annuncio, secondo alcuni, potrebbe arrivare già giovedì con un videomessaggio. Quel che è certo è che tutto il Popolo delle Libertà in queste ore guarda Silvio Berlusconi in attesa di un suo colpo di teatro. Il cavaliere sarebbe pronto a tornare in campo con una sua lista personale da affiancare al PDL, un'eventualità che renderebbe inutili le primarie volute con forza da Angelino Alfano e dai vertici del partito, nonostante le resistenze dell'ex premier. Per il centrodestra si tratterebbe di una rivoluzione destinata a passare attraverso uno spacchettamento del PDL. Proprio sull'ipotesi scissione stanno ragionando in particolare gli ex AN. Sulla nuova lista del Cavaliere stamattina preferisce non dare giudizi preventivi il presidente del Senato Schifani. Una delle candidate, Daniela Santanchè, chiede invece ad Alfano di fermare le primarie perché il tempo rimasto è poco e sarebbero un flop. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Brutta notizia di cronaca per chiudere questa prima parte: una ragazza di 15 anni si è tolta la vita a Trieste con un colpo di pistola. Secondo i primi accertamenti, la ragazza avrebbe utilizzato l'arma legalmente detenuta in casa dal padre. Alla base del gesto potrebbero esserci problemi legati alla scuola. È una ripresa esitante e disuguale quella che attende l'economia globale nei prossimi 2 anni. La crescita sarà modesta sul breve termine, con l'area euro in recessione o vicina alla recessione fino al 2013 inoltrato. Gli Stati Stati Uniti in ripresa, ma ad un ritmo più lento di quanto atteso. È lo scenario delineato dall'OCSE nell'Economic Outlook semestrale reso noto oggi. Sull'Italia il dato è pesante, riviste il ribasso le stime per il PIL italiano nel 2012-2013, prevedendo una contrazione rispettivamente del 2,2% e dell'1% contro il -1,7% e -0,4% nel maggio scorso. Questa crescita debole metterà ulteriore pressione negativa su occupazione, salari e prezzi, si legge, ed un'ulteriore stretta di bilancio sarebbe necessaria nel 2014 per restare nel percorso di riduzione del debito previsto. Dunque, dati per l'Italia molto preoccupanti che al microfono della nostra Valeria De Rosa il ministro dell'economia Grilli ha commentato così. Abbiamo visto che tutta l'economia mondiale, anche europea, in questo momento sono in una fase di rallentamento, lo hanno avuto durante il 2012, noi riteniamo che l'anno prossimo sia un anno di stabilizzazione, poi col secondo semestre l'economia ricomincerà a crescere. Questo non vuol dire che possiamo sederci e non fare nulla, dobbiamo continuare ad impegnarci in questo sentiero di riforma della nostra economia, senza la quale ovviamente i risultati di una più forte crescita non possono essere raccolti. E Grilli, che sta parlando a Milano ad un convegno organizzato dal Sole 24 Ore, ha proprio chiarito che ritiene non sia necessaria una nuova manovra perché il pareggio sarà raggiunto anche nel 2014. Grilli è arrivato a Milano per partecipare a questo convegno del Sole 24 Ore direttamente da Bruxelles, dove nella notte è stato raggiunto l'accordo sulla Grecia. E quella che state sentendo è la voce di Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economici, ha annunciato con queste parole che state sentendo a notte fonda un pacchetto di misure che dovrebbero ridurre in modo consistente il debito pubblico di Atene, che nel 2020 dovrebbe attestarsi al 124% del PIL e nel 2022 ad un livello sostanzialmente inferiore al 110%. L'Eurogruppo ha quindi dato il via libera politico all'esborso di una nuova tranche di aiuti per un totale di 43,7 miliardi di euro. Il via libera formale è previsto per il 13 dicembre dopo il voto parlamentare nei paesi in cui è richiesto, come la Germania. E noi restiamo a Bruxelles, dove sono calati gli allevatori a centinaia da tutta Europa per protestare contro la politica comunitaria nel settore lattiero-caseario. Oggi e domani infatti c'è il summit europeo tra i 27 ministri dell'agricoltura. Ci sono 2.500 produttori a Bruxelles provenienti da 14 paesi che stanno manifestando. Noi sentiamo Roberto Cavaliere, presidente Copagri Lombardia e membro dello European Milk Board. L'esasperazione dei produttori che da 3 anni chiedono risposte alla Commissione europea sono state totalmente disattese. Oggi nessun produttore europeo riesce più a vivere a questo sistema e a questi costi. Abbiamo i costi di produzione che superano del 30% quello che è il ricavo che ogni produttore prende di un litro di latte. Produrre latte in Europa, ci sono situazioni totalmente diverse da nord e sud Europa e le regole introdotte nel 1983 oggi non sono più adeguate. Noi chiediamo che venga superato il vecchio sistema delle quote latte con un sistema più moderno, più flessibile, in modo da regolare domanda e offerta e preservare l'interesse dei produttori e dei consumatori. Qui non è un problema di contributi. L'agricoltura oggi è un settore moderno, è un settore che può dare sviluppo all'economia. Abbiamo però i ricavi che sono fermi da 30 anni ed invece i costi di produzione che sono esplosi. Ad 8 anni dalla morte è stata riesumata stamattina la salma di Arafat. Il mistero sulla morte di Yasser Arafat, lo storico leader palestinese morto nel 2004 a Parigi, forse sarà chiarito. Il corpo del leader, riesumato oggi a Ramallah in Cisgiordania, è stato di nuovo sepolto nella sua tomba dopo il prelievo di alcuni campioni sulla salma. Lo riferisce una fonte della commissione d'inchiesta palestinese che ha assistito all'operazione iniziata questa mattina alla presenza di esperti francesi, svizzeri e russi. Gli esperti internazionali sono chiamati a stabilire se il presidente palestinese sia stato avvelenato con il polonio, ipotesi rilanciata a luglio da un documentario che rivelava la presenza di tracce di questa sostanza radioattiva su effetti personali di Arafat. a Ramallah sono presenti giudici francesi presso i quali la vedova ha sporto denuncia per omicidio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo parlando di clima. Il livello del Mar Mediterraneo rischia di alzarsi di 15-20 cm entro il 2050 e di 25-30 cm entro la fine del secolo, secondo gli ultimi scenari tracciati tra gli altri da esperti italiani. A Radio 24 con Idegard, commissario dell'Unione Europea al cambiamento climatico, spiega così gli obiettivi della Conferenza Mondiale sul Clima in corso a Doha, in Qatar. I would say I hope that when we all leave Doha 12 days from now. Spero che quando lasceremo Doha 12 giorni da oggi avremo raggiunto un accordo chiaro sulle regole che ci porteranno entro e non oltre il 2015 ad un accordo globale sul clima. Spero che lasciando Doha ci sia riconoscimento di come l'Europa stia rinnovando l'impegno di Kyoto e di come sia impegnata e in linea con le promesse fatte 3 anni fa a Copenaghen. E spero che quando lasceremo il vertice di Doha non saremo più impegnati a negoziare sul doppio binario che oggi distingue i paesi sviluppati da quelli in via di sviluppo sulle politiche ambientali. Not any longer negotiating in the two tracks, you know, this annex 1 and non-annex 1, the developed countries and the. Dobbiamo uscire da questo vertice con una strategia unica e comune, consapevoli che sì, certo, le economie più sviluppate devono fare di più dei paesi in rapida crescita, ma che anche le grandi economie in crescita che caratterizzano il nostro tempo possono e devono fare di più, perché altrimenti non saremo in nessun modo capaci di stare sotto il limite dei 2 gradi di aumento della temperatura globale. Era l'ultima notizia, grazie regia Matteo Comes. Prima il GR Spettacoli, poi Italia in controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Oggi Jimi Hendrix avrebbe compiuto 70 anni e arriva nelle librerie italiane Jimi Hendrix, mio fratello, la biografia scritta dal fratello Leon con Adam Mitchell. Un ricordo di Jimi Hendrix in Italia è contenuto anche in Confesso che ho stonato, l'autobiografia appena uscita di Stefano Dorazio. Così l'ex batterista dei Pur racconta Hendrix al microfono di Marta Cagnola. Sì, io sono andato al Brancaccio di Roma dopo una fine, perché non esisteva la prevendita allora, per cui ci siamo picchiati per un po', poi alla fine siamo riusciti a entrare, eravamo tutti ammucchiati, poi all'epoca il Brancaccio aveva 3 gallerie, quindi quelli dell'ultima galleria appesi, cioè una cosa veramente così, e non c'era la corrente adatta e Hendrix non voleva cominciare a suonare con quella caciara. Poi finalmente cominciò, ruppe una corda, buttò la chitarra e tutti quanti siamo ancora lì che la cerchiamo, ne prese un'altra e si mise a suonare e cominciò a fare una cosa da solo, molto languida, molto bella, le luci si spensero piano piano, cioè, a un certo punto dalla terza galleria uno: a Gigi Hendrix, ma voi suonate? E questa sera, per celebrare il compleanno del grande chitarrista di Seattle, in quasi 150 cinema italiani verrà proiettato Hendrix 70 Live at Woodstock, il film con la ricostruzione integrale dell'esibizione che l'artista tenne a conclusione dei leggendari 3 giorni di pace, amore e musica. Esce oggi Italia Loves Emilia, il concerto, quadruplo CD più doppio DVD con la registrazione integrale del grande concerto del 22 settembre scorso al campo volo di Reggio Emilia. Così come per il concerto, il ricavato delle vendite sarà devoluto a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto. She's just a girl and she's on fire. La cantante Alicia Keys, 30 milioni di album venduti nel mondo, autrice, produttrice, vincitrice di 14 Grammy, pubblica oggi il suo 5° album Girl on Fire. Si tratta di 13 brani prodotti dalla musicista a cui hanno collaborato artisti di grande talento, tra cui Babyface, vincitore di numerosi Grammy, e un fenomeno della musica inglese come Emily Sandé. Robbie Williams si esibirà in 15 stadi europei nel 2013 per un tour che partirà con 2 serate al Manchester City Stadium il 19 e il 20 giugno, una sola tappa in Italia, il 31 luglio allo stadio San Siro di Milano. La prima delle 2 puntate della miniserie Le Mille e Una Notte, Aladino e Scheherazade su Rai 1, il secondo appuntamento, ricordiamo, andrà in onda stasera, si aggiudica la prima serata televisiva di ieri con 5.769.000 telespettatori e uno share del 20,02%. Su Rai 3 invece, Che tempo che fa del lunedì, con ospiti i 2 candidati al ballottaggio per le primarie del centro-sinistra Bersani e Renzi, è stato visto da 2.962.000 telespettatori con uno share del 9,93%. In scena fino al 2 dicembre al Teatro Vittoria di Roma, Senza confini, ebrei e zingari, il nuovo spettacolo di Monio Vadia, un piccolo ma appassionato contributo alla battaglia contro ogni razzismo. Elisabetta Fiorito ha chiesto a Monio Vadia cosa hanno in comune, a parte le persecuzioni, ebrei e zingari. Sono stati due popoli che hanno costruito un autentico capolavoro. Io quando parlo degli ebrei dello Yiddish, come i Rom. Questi due genti, questi due popoli hanno costruito un capolavoro ineguagliato. Dimostrare che si può essere popoli in tutto e per tutto, addirittura nazioni, fra i confini, a cavallo dei confini. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.